Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Allora, oggi giovedì, puntata concitata, 16:33 minuti, sono con Cristina Tagliabue. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Il tema è complesso per me, che non ci capisco nulla, per te invece vai un po' più sciolta. Maxi architettura e maxi stereotipi, un po' il titolo della puntata. In realtà parliamo di cose grandi. Di cose grandi, esatto. No, parliamo di architettura, parliamo del... Com'è che abbiamo detto che si dice? Poi ti presentiamo. Sì, cioè, Max... Museo delle Arti del XXI secolo. Lui è Erjan Alberg, è un designer vero. Noi siamo invece architetti e designer vero. Noi invece siamo gente che... No, io sono gente che... Noi scriviamo. Noi facciamo altre cose. Allora, parleremo di questo museo, di questo luogo, della polemica, della insomma. Della grande sfida anche per una città come Roma. Esatto. Insomma, è stato molto contestato. Ci sono state delle polemiche. Entreremo un po' nel merito. Sia io che Cristina ci siamo stati. Abbiamo impressioni diverse. Insomma, parleremo un po' di architettura. Ma prima le news, i consigli di Cristina Tagliabue. Dal prossimo 17 luglio, presso la Galleria Duomo di Pietrasanta a Lucca, Giuseppe Veneziano, l'artista che ha interpretato il volto di Oriana Fallaci decapitandola, inaugura la sua prima personale, fino a termine vacanze. Il Padiglione Italia della Biennale inizia la ricerca di artisti. All'interno dell'area Ai Lati Italia, Riflessi dal Futuro, dedicata appunto ad arte e futuro. Il curatore Luca Molinari ha chiamato tra gli altri anche Duilio Forte di Atelier Forte ad esporre i suoi lavori. Un successo inaspettato, la mostra appena terminata, che ha portato in Italia la secessione viennese. Schiele e il suo tempo ha chiuso i battenti due giorni fa a Palazzo Reale, dopo essere stata inaugurata il 23 febbraio scorso. Sono state 105.000 le persone accorse a visitarla. Ha inaugurato ieri l'altro, presso la Rotonda della Besana di Milano, l'esposizione You We, video dall'altro mondo, ovvero video extracomunitari, video che raccontano l'altro, il diverso, lo straniero. Tra gli artisti presenti, l'innovativa Daphne Boggeri, emergente in prima linea. Allora, l'Errata Corridge. Non è schiele, è scile. No? È la secessione viennese. No? È stato un periodo particolarmente aulico, no? Perfetto. Dunque, abbiamo fatto l'Errata Corridge. Dobbiamo fare poi una puntata sugli Errata Corridge, che ogni tanto ci scappa. Anche sulle robe. Ma poi è colpa nostra, sulle robe di tecnologia. Ci sono anche termini un po' pronunciabili. Un po'... Vabbè, comunque. Come tecnologia di schiele. Come tecnologia di schiele. No, al Max, io sono stato. È, a me devo dire, è piaciuto molto, è parte, per me è un giocattolone, devo dire, l'ho vissuto come un giocattolone, mi sono molto divertito a entrare, toccare, pistolare, però insomma hai sporcato i muri anche stavolta. Ho sporcato i muri anche questa volta, però insomma noi abbiamo qui un designer che ci aiuterà innanzitutto a capire la ragione di quest'opera, ce la descriverà e anche l'approccio giusto per entrare, per misurarsi con questo tipo di esposizione. Com'è che si chiamano? Com'è che le possiamo... Ma cioè, esperienze, che cos'è che... Cioè... Zaha, diciamo, questo progetto di Zaha è molto... Zaha Hadid, per i nostri ascoltatori. Zaha Hadid è un progetto che vuole un po' riassumere il suo linguaggio, la sua poetica. Non dimentichiamo che è un progetto del 1998, quindi è un progetto nato 12 anni fa. E è un progetto che va letto per quello che in un qualche modo tutti stanno leggendo, un progetto che da una parte crea tante polemiche, però dall'altra è un progetto che con la sua energia, con la sua forza, diventa motivo di discussione e dibattito esso stesso. Quindi è un progetto architettonico che è un contenitore, però nello stesso tempo è contenuto. Certo. E non dimentichiamo che è un museo di arte e di architettura. Ma infatti, cioè, lo descrivo nel minimo, ma come lo descrive un bambino, ci sono scale, si scende, si sale, ci sono ascensori, tutto sembra un'opera d'arte e in tutti gli angoli c'è qualcosa da vedere. Tra l'altro c'è una frase bellissima, non è scritta sul muro, che mi è rimasta impressa, non è l'arte che si espone al pubblico, ma è il pubblico che si espone all'arte, e che secondo me è la migliore definizione per come ho vissuto io questa esperienza del Max. Non so, Cristina, tu. Ma io mi sono sentita un po' come dentro a un Guggenheim, no? Cioè l'impressione di non essere in Italia. Sai quando l'impressione è positiva, è di non essere in Italia? Ah, entro e non sono in Italia. Ma che cosa strana, sono a Roma. E Roma non è quello, no? Roma è tutto il contrario di questo posto. Sì, e perché invece... spieghiamo, è molto moderno, Roma è polverosa, è bellissima, ha questi colori caldi, ha questo giallo che è un po' questo senape un po' lungo le strade. Mentre è un palazzone che sa di Berlino, che ricorda Madrid, che ricorda le grandi capitali Bilbao, europee. Bilbao, no? C'è Albert che mi guarda stupito. No, solo sulla parola palazzone, poi per il resto... No, ma devi capirmi. Allora, però giustamente su palazzone un designer si è un po' risentito. Sentiamo chi è Gian Albert. Erjan Alberg e Laura Aquili dal 1999 hanno lavorato ad Amsterdam, Rotterdam, Roma, Londra e Pechino presso gli uffici internazionali di Zaha Hadid, dove sono stati responsabili di diversi progetti, dalla piccola alla grande scala. Nel 2006 fondano a Milano lo studio Aquili Alberg, dove si occupano di architettura, design e grafica, con un approccio sperimentale e innovativo, unendo l'esperienza ad alto contenuto tecnologico acquisita all'estero con il loro background che affonda le radici nella contaminazione tra architettura, grafica, arte e design. Tra i loro clienti la casa d'aste Christie's, la Triennale di Milano e lo stilista Neil Barrett. Nel 2009 hanno il premio Imprese Creative e Innovative 2008 della provincia di Milano. I progetti dello studio sono recensiti su molte pubblicazioni nazionali ed internazionali. Oggi con noi l'architetto Erjan Alberg per parlare di Des Architecture, come cita il nome del loro blog. Allora, no, lui ha strabuzzato un po' gli occhi, Alberg, però cioè, io non ho la terminologia giusta per il cui... Il palazzaccio, cioè a Roma, poi c'è il palazzone che è Marx. Esatto, no, cioè... Per cui molta pazienza con me, devi capire, come un bambino, cioè devi pensare a me come un bambino. Allora, io volevo ritornare un attimino a raccontare un po' questo progetto, che l'ottica in cui deve essere visto, diciamo, da tutti, o l'ottica che... ritengo che vorrei un attimino spiegare, visto l'esperienza che ho avuto nello studio Hadid, non personalmente su questo progetto ma su altri progetti, tra cui uno in Cina, diversi nel resto del mondo, è che è un approccio progettuale, quello di Zaha Hadid, che si basa sulla forza emotiva del progetto che fa, sulla forza emotiva, sull'energia che un progetto sprigiona. Cioè chi va a visitare un progetto di Zaha Hadid, in questo caso il Maxi, si sente come in uno spazio in cui un flusso di energie, un flusso di forze cerca in qualche modo di dare a chi lo visita, a chi lo sta visitando, una sorta di nuova esperienza. E lo stesso è la percezione che si ha dall'esterno, cioè è un qualcosa che deve invitare la riflessione, la discussione, e nello stesso tempo deve essere un'esperienza. Cioè non è il museo che viene visto come un luogo dove sono esposte delle opere, ma è un museo che insieme alle opere esposte, che insieme alla persona che lo visita, diventa un'esperienza, un'emozione, un qualcosa che dialoghi. E questo è, diciamo, il primo modo di leggere il progetto di Zaha Hadid da Roma, secondo il mio punto di vista. Ma scusami, faccio l'avvocato del diavolo, ma a Roma c'è Piazza Farnese, io quando vado a Piazza Farnese sento di vivere un'esperienza fantastica, no? Perché in qualche modo sento che tutta l'architettura ha un po' questo compito, no? Quello di non farmi sentire a casa, ma farmi sentire una dimensione altra. Questo luogo così particolare, poi dopo non posso dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto, no? Noi siamo osservatori, guardiamo, poi Luca ha le sue preferenze, per carità, no? Però la mia domanda è, non so, ho letto un articolo di Repubblica, per esempio, all'interno del quale c'è tutta questa attenzione, no? Nel design di un luogo, nella preparazione, c'è la famosa archistar. Settimana scorsa avevamo avuto qua, in questa stessa trasmissione, un ragazzo che ha fatto un documentario su una casa che è stata chiusa dentro dei palazzi fatti da Archistar qui a Milano. Quindi la moda dell'Archistar, il grande evento, poi una persona di 65 anni che non può entrare gratuitamente, no? Quindi l'arte, come invece questo accade in tutto il resto d'Europa. Esatto, questo, no? Quella del 65enne era un motivo di polemica. Tra l'altro leggo a supporto di quello che stai dicendo Cristina ha citato Repubblica, insomma troppo ego, scrivono una sinuosa aerostazione, un mausoleo alla sua divinità. Non piace al quotidiano francese Libération la creazione di Hadid. Su Repubblica insomma sono state polemiche. Io credo che queste siano in un qualche modo delle polemiche costruttive, io direi. Cioè, è vero che in architettura una parte di quello che viene fatto è l'ego dell'architetto, quello è innegabile. Però è anche vero che un'architettura di un architetto non nasce dal niente, non è l'opera di un artista che in solitudine dipinge un quadro. Il progetto di un architetto, soprattutto in questo caso il Maxi, è un progetto che è durato 12 anni. E per l'esperienza che ho in altri studi che poi non sono stati citati nella scheda, ma in Olanda da Rem Koolhaas o da Ben van Berkel o Laura anche da Fuxas, il processo di un progetto dura tantissimo ed è un processo in cui vengono coinvolte diverse parti, un curatore, una committenza, degli specialisti, dei tecnici. Non è mai espressione di una persona, non è espressione di un ego, di una psicologia, di una sola persona, perché è fatto con un team di 10-12 persone, 20 persone, consulenti e soprattutto un committente che nel fatto specifico ha fatto delle richieste, cui Hadid ha risposto con un concorso, poi vinto. Allora, se poi vogliamo andare a vedere gli spazi che ha fatto, perché poi li vediamo realizzati, quindi non più sulla carta, non più immaginati, allora possiamo trovare un qualcosa che funziona meno o un qualcosa che ci piace meno o che a qualcuno piace meno di altri. Però non si può pensare che l'architetto sia responsabile unico di un progetto che ha coinvolto centinaia di persone. Ma alla fine mi sembra quasi un modo, no, per parlarne, parliamone, siamo pro, siamo contro, questo piace, questo non piace, però alla fine il Maxi comunque è stato vissuto dal mondo della politica e della cultura romana come la grande sfida di un grande progetto che in qualche modo avrebbe dovuto trasformare la città in qualcosa di paragonabile alle città straniere, no? E questo è il portato positivo. Nova Lab 24. Rieccoci in trasmissione 16:46, stiamo parlando del Maxi, lo facciamo in compagnia di un grande designer, Erjan Albe, che lo facciamo in compagnia di Cristina Tagliabue. La cosa che ci stavamo domandando è che, almeno io ponevo il tema dell'Archistar con un filo di invidia, forse sarà che non ho alcun tipo di gusto, ma però per il fatto che poi alla fine della fiera si discute sempre delle persone e poco di quello che fanno, forse è un problema di comunicazione di come l'architettura si racconta. Ma in realtà credo che il Maxi dovrebbe dimostrare un po' come il lavoro di questi studi sia un lavoro portato alla sperimentazione, cioè un lavoro di ricerca continua in cui uno studio, nel caso specifico di direi 350 persone, lavora notte e giorno con passione, con tantissima voglia di fare, di innovare. E ovviamente il Maxi è uno dei tanti progetti che lo studio ha realizzato, però è un progetto così forte e così ormai nella cronaca di tutti i giorni, in cui tutti ne parlano, che adesso la sfida era quella di avere un progetto di Hadid o di quel livello in una città come Roma, quindi già una grossa sfida. La sfida adesso sarà quello di fare funzionare la macchina, di fare in modo che questo grande sforzo che è stato fatto e che è costato così tanto tempo poi porti a a un miglioramento di un'area, di una zona. Ci sono altri musei che stanno sorgendo limitrofi, quindi è un motore che deve essere innestato e poi deve comunque essere riempito di benzina, diciamo. Direi anche un motore innestato, perché io non so, due settimane fa, settimana scorsa, tutti andavano al Maxi, e se non andavi al Maxi, no, all'interno di una determinata cerchia di quelli che insomma sono lì ad andare agli eventi fighetti, bla bla, eri un po' uno sfigato, se posso dirlo, no? Quindi alla fine tutti al Maxi comunque ci sono andati, e questa era poi nessuno ci va più, viene perso nei tempi. Dopo che sono andati, insomma, cioè nessuno ci va più e a quel punto si lascia ai suoi destini. Questo è quanto di più sbagliato, e credo che sia proprio questo il punto, cioè di creare una sostenibilità, insomma, certo, di questi luoghi. Se no è giusto dire è un monumento fino a se stesso, però nel momento in cui il monumento serve come motore, allora diventa, cioè, sì, quando ha finito di fare da passarella quell'intelligenza romana o internazionale o milanese, sì, quando funziona come museo, quando viene riempito di contenuti, non è più solo un contenitore, ma io credo che sia. Elisa Manna in collegamento con noi, cambiamo completamente discorso. Sì, perché stiamo parlando di maxi cose, quindi vabbè, insomma, museo maxi, museo grande e maxi stereotipi, poi insomma non dico la cosa che ho scritto sul mio blog, ma chi vuole può andarla a vedere, perché in realtà maxi e molto grandi pare, secondo una ricerca del Censis, che oggi insomma Elisa Manna è chiamata a commentare, ma tra tanti eventi che segue oggi c'è questo evento a Milano sui media e gli stereotipi all'Università Statale, e quindi noi insomma volevamo chiederle questi stereotipi, perché vengono studiati dal Censis, perché le donne, i media vengono studiate da un istituto così importante e poi soprattutto con ricerche mi sembra a livello europeo? Sì, perché è un tema veramente importante, un tema su cui si basa la cultura della nostra epoca. L'immagine femminile, così come viene utilizzata dai media, è una base, un linguaggio intorno a cui ruota la comunicazione. Purtroppo un linguaggio pessimo, perché siamo tornati indietro di molti anni, siamo tornati allo stereotipo della donna oggetto, come si diceva una volta, di una donna puramente oggetto sessuale ammiccante che serve ad attirare l'attenzione, a vendere pubblicità, e viene piazzato un nudo femminile un po' dappertutto anche per pubblicizzare un mastice, e questa è una cosa molto grave perché è qualcosa che lede il diritto delle donne ad essere rappresentate nella loro completezza e nella loro ricchezza, perché in tutti questi anni le donne sono andate avanti nella nostra società come in quelle del resto d'Europa. Devo dire che c'è una grossa differenza con il resto d'Europa, perché in tutti i paesi europei esistono codici, leggi, codici di autoregolamentazione che impediscono appunto uno sfruttamento dell'immagine femminile così, così negativo. Ecco, mi scusi dottoressa, ma perché lo studia il Censis? Perché il Censis è un centro di ricerca che si occupa della società italiana e quindi della cultura italiana. È uscito un bando europeo su questo tema, noi lo sapevamo e abbiamo realizzato questo progetto di ricerca, l'abbiamo vinto. Sì, no, perché era oggettivamente curioso, nel senso, di solito le statistiche sono, cioè, su questa è più un tema di opinione culturale, mi verrebbe da dire, no? Ma il Censis forse non è conosciuto abbastanza. Noi facciamo ricerca economica, ma facciamo anche ricerca socioculturale, anzi devo dire che negli ultimi anni il Censis si è impegnato sempre di più su questi temi. Per esempio abbiamo... Qual è l'obiettivo di una ricerca di questo tipo nel lungo periodo? Capire che anche in Italia si possono promuovere leggi, codici, regolamenti, così come negli altri paesi europei, che impediscano questo deterioramento culturale. Ma non è far politica? Beh, se vuole è un modo di far politica, nel senso che è una ma la ricerca non è mai completamente avvalutativa. Personalmente non ritengo che la ricerca sociale debba essere avvalutativa. La ricerca sociale si porta presso dei valori. Allora, per quanto riguarda nella fattispecie la mia visione delle cose, io credo che le donne siano degli esseri completi, che siano delle persone che hanno diritto a una loro dignità, così come in tutti i paesi europei. Dottoressa, senta, sono una donna, la interrompo perché volevo fare una domanda, ma questi maxi stereotipi quali sono? Quindi fondamentalmente cosa avete trovato? Sono sostanzialmente due. Uno è quello, diciamo, che ormai è conosciuto da tutti perché se ne è parlato dappertutto, del velinismo, cioè nel 42% di tutte le volte secondo, che le donne... Abbiamo pochissimi secondi, non vorrei sfumarla. E l'altra è la donna vittima, la donna della tragedia, quindi in ultima analisi le donne della realtà, quelle che si impegnano e studiano, non esistono. Grazie Elisa Manna, ringrazio anche Albert per essere stato con noi e per averci grazie spiegato come si vive il maxi o si vivono queste opere di storia di arte contemporanea. Ringrazio Cristina Tagliabue, ringrazio anche Luca Tremolada, ci sentiamo domani alle 16:30. Domani. Ciao, grazie. Nova Lab 24. Nova Lab 24.